io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. La voce è quella che è, vi lascio immaginare il resto, ma tanto oggi le voci che mi interessano, la voce importante non è la mia, è la vostra. 800240024, dopo una giornata di campionato, la prima del 2013, che è sembrata una specie di aurora boreale italiana, a cui io faccio fatica a credere. Evidentemente le feste non hanno fatto benissimo a me, ma neanche a loro. Come episodi sfortunati, ma non faccio né ironia né niente, sono episodi sfortunati. Gli dicevo all'assistente: sono 10 partite che 50 e 50 ci va di là, ma questo non è 50 e 50, questo è 80-20, 90-10. Perché se ieri ho sentito da tutti gli organi di stampa dire che Close è rigore ed espulsione, con la palla che ha calciato e dopo gli è arrivato addosso il portiere, è rigore il mio, perché la palla stava lì e il mio è stato danneggiato davanti al portiere. Sono di quelle classiche partite che capitano ogni tanto, fortunatamente non una all'anno, ma probabilmente uno ogni 2-3 anni. È stato un grandissimo portiere, sono stati bravi il Pescara a sfruttare un calcio piazzato e poi a legittimare, come ho sentito nel servizio, alla fine, ma anche il secondo tempo sicuramente la Fiorentina non avrebbe meritato di perdere. Quando perdo non è che spizzo gioia da tutti i pori, quindi chi mi conosce sa che fatico a metabolizzare la sconfitta, però fa parte del gioco. Però se pensate che dopo una sconfitta mi troviate allegro e contento, no ma la vedevo proprio, sarà molto molto in difficile. Sofferenza, mentre vedeva anche il gol sbagliato da Vucinic, di quelli che non si vedono spesso. Io ringrazio chi scrive che la trasmissione fa schifo, che è tornato al cabaret, che eccetera eccetera eccetera, e faccio gli auguri di buon anno a tutti quanti, anche a Franco da Modena. 800240024 per la vostra voce, che certamente oggi sarà migliore della mia, ma soprattutto per la voce di chi ha deciso la impresa della Sampdoria a San Siro all'inizio della stagione, e di chi ieri è stato protagonista di quella ancora più importante della Sampdoria sul campo di Torino, togliendo così ogni buon umore ad Antonio Conte. Saluto Andrea Costa, difensore della Sampdoria. Ciao Andrea, grazie. Ciao a tutti voi, buon anno. Quella di San Siro l'hai firmata di persona. Questa sì. Però credo sia ancora più bella, significativa, difficile. Sì, beh, sicuramente direi importante, ecco, anche alla vista dei risultati che ci sono stati ieri. È stata una vittoria per noi importante. Poi ovvio, andarla a fare a Torino contro la Juventus è sempre, insomma, una vittoria ancora più particolare. Sì, ieri Palombo al centro della difesa, scongelato da Delio Rossi, che cosa ha voluto dire per voi? Ma per noi ha voluto dire avere un giocatore di grandissima esperienza al nostro fianco. È un giocatore che ha dato tanto alla Sampdoria e che credo potrà dare ancora tanto. Cosa ha cambiato Delio? Ma insomma, non è difficile dirlo, soprattutto perché insomma è poco il tempo che è con noi. Poi insomma è magari rispettoso nei confronti dello staff che c'era prima, che secondo me comunque ha svolto un ottimo lavoro. Poi lo sappiamo, nel calcio comandano i risultati. Sicuramente il mister adesso è una persona con una grandissima esperienza, quello credo sia cioè, di fondamentale importanza per noi. Sì, e poi grande entusiasmo, l'ho visto ieri dopo la... Sì, sì, sì. Ma quello credo se ce l'avessimo tutti ieri a fine partita, perché beh, penso, veramente penso anch'io. Un'impresa, direi. Cos'è successo negli spogliatoi, ce lo puoi dire? Ma insomma, grande gioia misto incredulità, secondo me, perché è sotto di 1-0, sì, in 10, sì. È quello probabilmente la cosa più particolare, ecco. Poi insomma, ripeto, in casa della Juve è stata veramente un'impresa, e credo che al di là dei 3 punti di ieri ci possa dare una grossa sfida, sì, per poi tu dici, in quelle condizioni Andrea Costa arriva siamo sotto di un gol, recuperiamo, rimontiamo, oddio, adesso arriva la Juventus, ci investe. Invece mi sembra che avete retto benissimo, comunque anche in 10. Sì, infatti siete una squadra stati... molto forte fisicamente, secondo me. Sì, insomma, noi su quello anche dobbiamo puntare, sulla freschezza di tanti giovani che abbiamo in squadra, sull'entusiasmo. Non dimentichiamo che siamo una delle squadre più giovani del campionato, quindi probabilmente era uno scotto che durante il campionato avremmo dovuto pagare, e probabilmente anche il fatto di essere così giovani ci porta ad avere degli exploit come quelli di Milano, come quelli di Torino, che sono insomma inaspettati. Senti, dimmi una cosa, episodio decisivo, la traversa di Vucinic, puoi dirmi cosa hai pensato in quel momento, o è soggetto a censura? No, proprio cosa ho pensato non te lo dico, però era una fase talmente concitata che probabilmente un secondo dopo pensavo già a cosa... A come difenderci da a come tirare via quel pallone lì, sì, a come buttarlo, sì, via. Sì, insomma, sì, è stata per vincere a Torino contro questa Juve, devi un po' di fortuna devi avere, se no non puoi vincere. Ieri probabilmente l'abbiamo avuta tanta in quell'occasione, però insomma, viste le condizioni, secondo me abbiamo disputato una grandissima partita. Certo, sono d'accordo. Oggi tutti però scrivono che era una Juve con meno fame. E beh, quando insomma, quando una squadra perde c'è sempre qualcosa che non funziona. Io dico che invece era una Sampdoria con un grandissimo cuore. Senti, ti chiedo ancora due cose. Questa Juve vincerà lo scudetto? Questa è la domanda facile. Non lo so, io dico che ieri ha perso una partita, però non ha perso tanto dalle altre inseguitrici, quindi insomma, se secondo me rimane comunque la squadra più forte, più attrezzata per vincere questo campionato. Adesso la domanda più difficile: Genoa e Sampdoria si salveranno tutte e due? Ma io mi auguro di sì, sono sincero, perché era la prima volta che facevo il derby a Genova quest'anno, e sinceramente sì, un'emozione del genere poche volte, ormai qualche anno che gioco, ed è poche volte mi è capitato di provarlo. Quindi grande Boriello. Beh, no, adesso non esageriamo. Non esageriamo, però insomma, io mi auguro che sì, insomma, che ovviamente che la Samp si salvi, però per la città di Genova, che anche il Genova possa fare il suo percorso. Vedrà che tutto andrà a posto, per carità, per carità, per carità. Ragioniere, l'ho preso forte. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. Questi cambiamenti di temperatura. Scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione. Scusi, no? Abbia pazienza. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento che sta sulla bocca. Ma scusi, che prende qua? A me mi ha preso un occhio, scusi. Non sono solo io che ho il raffreddore. No, non so se abbia il raffreddore l'Inter o la Juventus, che ieri ha perso il modo in cui ha perso. Tra l'altro c'è chi scrive: ieri l'Inter ha perso, se la Juve vinceva campionato praticamente finito, sicuramente la Juve vincerà lo scudetto. La sconfitta di ieri indolore, Buffon ha fatto una papera colossale. A pensar male su cosa, Luca da Verona? Su questo non ci arrivo. A parte che Buffon secondo me ha fatto 2 errori, una papera colossale, ma anche il secondo gol. Comunque in questa domenica, dalle congiunzioni astrali strane, in questa domenica in cui appunto abbiamo visto incredibilmente, compresa la Fiorentina che perde per la prima volta in casa sul suo campo contro il Pescara abbiamo visto una sorta di aurora boreale che non credo durerà molto, quindi io non credo all'adagio anno nuovo, vita nuova, perché nonostante i ronzii di mercato penso che dal prossimo turno le cose si rimetteranno in maniera diversa. Ha sfruttato l'occasione la Lazio, che è tedesca come la sua stella Klose, che è quadrata come il suo allenatore Petkovic, che è uno che non fa magie, che non si inventa nulla, ma è uno estremamente bravo nella sua razionalità. E Lazio ora seconda in classifica, la Roma invece è quasi il contrario ed è crollata a Napoli. Dopo ogni gol di Cavani mi sembra di vedere, poi lo sentiamo anche, mi sembra di vedere De Laurentiis con gli occhi di Paperone. Avete presente quando zio Paperone vede un giacimento d'oro che gli diventano gli occhi con i dollari dentro? Questa mattina ha detto che ha rifiutato un'offerta. De Laurentiis ha detto che ha rifiutato un'offerta di rifiutai 55 milioni per Cavani, ma c'è una clausola di oltre 63 milioni. Poi parleremo anche di questo. 800 23 24 00 24, Francesco, provincia di Cuneo. Pronto, buongiorno, buongiorno. Tantissimi complimenti per la trasmissione, mi scuso. Grazie. Anch'io per la voce roca, ma ieri ero allo stadio a vedere a vedere la mia Sampdoria a Torino e allora la capisco, ho ancora la voce un po' io ero po a casa sotto la coperta, ma ho la voce roca lo stesso. No, io semplicemente veramente voglio fare i complimenti alla sua trasmissione, perché davvero io oggi ovviamente ho comprato tutti i giornali possibili immaginabili, e ovviamente si parla solo della Juve, si parla del fatto che ha sprecato un'occasione, e invece lei, come mi aspettavo straordinariamente, ha dato voce con i complimenti. Ho dato voce a chi ha vinto, a chi ha fatto l'impresa, ma mi sembra una cosa quasi normale, no? Questo veramente noi tifosi della Sampdoria non possiamo fare altro che apprezzarlo, perché a leggere la Gazzetta, a leggere tutti gli altri giornali, davvero non c'è spazio per questa che è stata sicuramente... Com'è questa, Francesco, com'è questa Samp? Ma questa Samp, noi lo dicevamo tutti ieri in curva, era una partita da Samp, è una squadra pazza, è una squadra che però riesce in questi appuntamenti sempre a fare bene, è una squadra che... Io ha però... fisicità e talento, secondo me. Delio Rossi è un allenatore che mi sembra molto, molto adatto per questa Sampdoria. Sì, sì, ieri sicuramente l'abbiamo vista, era commosso quando è finita la partita, è venuto sotto da noi a salutarci, e anche lui ha grande cuore, e siamo contenti, e aver ascoltato oggi Andrea è stato veramente bello, quindi... Bene. Quindi vi ringraziamo, la ringrazio, io spero di farlo a nome di tutti i sampdoriani all'ascolto. Ma cerchiamo di divertirci e di sentire un po' tutti, perché a me piace soprattutto sentire le vostre voci, perché siete convocati ogni giorno. Federico, Alessandria, buongiorno. No, io sono abbastanza d'accordo con l'amico Dorian che ha chiamato poco fa, ma non mi dramatizza, io sono... Ma no, io non la sento, però va bene la mia voce, ma il telefono è peggio ancora. Davide, provincia di Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io complimenti per la trasmissione, ovviamente, sempre molto interessante, da molti anni. Sì. Io volevo dirle che sono veramente deluso dall'Inter, ma non solo per il risultato, ovviamente, proprio perché nell'incapacità della società nel gestire, nel fare una squadra ogni anno, mi sembrano veramente dei dilettanti, lo sbaraglio. Stravaccioni ha perso quello che era la sua caratteristica, le idee chiare e avere un progetto. Ieri l'Inter, che lui dice non ha meritato di perdere, secondo me da interista meritavamo anche 10 pappine ieri. No, 10 pappine no, però quello che dico io, mi faccio dire una cosa, sì. Davide. Quello che dico io è che aggrapparsi ad episodi arbitrali come ha fatto Stramaccioni ieri, quando prendi 3 fischi a 0, mi sembra una bugia. Oggi ha parlato anche Moratti dicendo il commento non può essere positivo, abbiamo beccato 3 gol, sembrava una partita da portare a casa senza troppe difficoltà, invece si è trasformata e questo non deve succedere. è ciò che ha detto Massimo Moratti. Quando prendi tre fischi e ti aggrappi ad un errore dell'arbitro, che poi Palacio era in fuorigioco, anche non fosse stato in fuorigioco, non mi sembrava un contatto da... un contatto di quelli epocali, quindi è stata una carezza, una leggera trattenuta, eccetera eccetera. Aggrapparsi a quello quando prendi tre fischi mi sembra un gioco da deboli, mi sembra un gioco comunque da squadra in difficoltà. Esatto, infatti volevo appunto concludere dicendo che ha perso quella caratteristica di l'Inter. Ieri i ragazzi, i giocatori dell'Inter hanno cominciato a fare falli stupidi dal primo minuto. Parlavo con mio figlio, Pereira ha fatto due falli da giallo nei 5 minuti. Jesus ha fatto due falli, è stato espulso. Cioè, vuol dire che le gambe allora, non c'erano. Allora, o si gioca a calcio, no, ma Davide, o vuol si dire, fanno gli stupidi. Ma no, non è questione di falli stupidi, vuol dire che evidentemente le gambe non c'erano. Questo rientro sono vacanze molto lunghe, secondo me eccessivamente lunghe queste... Di metà stagione e si è visto per molte squadre, Inter compresa. Gianni, provincia di Ancona, poi voglio sentire un po' di voci da podio di ieri. Buonasera. Gianni, buonasera. Salve. Buonasera. Dica. Salve. Tre considerazioni veloci. Uno sul ministro Cancellieri, che leggo in questo momento nel vostro sito, dove dice che la sospensione delle partite in caso di razzismo. Io credo che in questa maniera si darebbe in mano a questi signori ancora più potere per ricattare la società. Finché non vengono gestiti dalla giustizia ordinaria, questi faranno sempre questo. Per quanto riguarda invece Buffon, che dice praticamente quanto sbaglio io perdiamo sempre, come dire perdiamo poco perché sbaglio poco. Ecco, io dico che Buffon è un portiere istintivo che a 30 anni purtroppo non ha più le caratteristiche per poter giocare, in quanto se subisce pochissime azioni non lo trovi mai pronto. Per quanto riguarda invece il rigore su Mazzi, io condivido pienamente quello che ha fatto l'arbitro, perché ha fatto benissimo, perché lasciare a Sampdoria con due rigori il primo tempo, con due uomini in meno, visto e considerato quello che è successo con Orsato, che si è permesso come giudice di campo di dare due rigori a Juventus che non era nel suo campo di gioco, perché in quel momento l'arbitro era più vicino, e non dare della linea un rigore nettissimo e viene premiato successivamente mandandolo ad arbitrare la seconda squadra di campionato, doveva pensarci bene prima di fare certe cose. Tutto qui, la ringrazio della possibilità che questa radio ha dato. Grazie, grazie Gianni. Poi l'audio del ministro Cancellieri ve lo facciamo anche sentire, era venuta stamattina a 9 in punto. È un argomento spinoso che va trattato con le dovute cautele e anche con il dovuto tempo. Adesso però vorrei tornare, lascerei stare le disamine arbitrali di Gianni D'Ancona, le ha già fatte lui. Vorrei invece andare sul podio delle dichiarazioni della domenica. Sentiamo se siete d'accordo con noi. Al numero 3 c'è De Laurentiis. Che bisogna capire anche come giocherà il mondo occidentale la sua partita in questa ripresa dalla recessione, quindi bisogna capire se l'America riuscirà a essere il tirante di tutta l'economia occidentale, se invece io nell'Europa non ci credo, non ci ho mai creduto, perché finché l'Inghilterra rimarrà fuori dal treno europeo e finché noi populisticamente ci accolleremo anche tutti gli stati minori, io credo che non ci possa essere una grande competizione con gli Stati Uniti. Cioè, ma vi rendete conto? Questa era la spiegazione alla domanda se venderà Cavani. Allora, se la borsa americana sale, se il dollaro scende, se l'Inghilterra non fa parte di questo sistema, allora il discorso è eminentemente di quattrini. Ogni gol, ogni impresa di Cavani ovviamente ne aumenta il valore. E De Laurentiis oggi, in maniera molto più prosaica ma molto più chiara, ha detto: rifiutai un'offerta da 55 milioni non dal City, ma ho rifiutato e credo di aver fatto bene, anche perché, proseguono le agenzie, Cavani ha una clausola rescissoria di oltre 63 milioni, se quest'estate viene qualcuno, lui è un ragazzo intelligente e sceglierà, se arrivano i russi resta qui, se arrivano Barcellona e Real Madrid magari un pensierino ce lo fa. Vittorio da Parma. Ciao Carlo, volevo farti due domande. Anche tre. Allora, le due domande sono: io, pur essendo di Parma, sono tifoso del Napoli, ho già chiamato tante volte. Una sul Napoli e una sulla Juventus, ma la Juventus non è quella di calcio. Sul Napoli, sì. ieri è finita 10 tiri a 6 nello specchio della porta per la Roma, 18 tiri a 7 il compito, cioè il totale dei tiri. Mi chiedo che se Cavani fosse stato dall'altra parte quanto sarebbe finita la partita a favore di Zema, che io stimo tantissimo. Detto questo, la seconda domanda era sulla Juve di Caserta, però due vittorie stupende. Io ho visto quella su quell'Avellino che mi ha emozionato tantissimo, e quella su Sassari. Possiamo sperare in qualcosina, no? In qualcosina in che senso? No, in qualcosina, cioè, non lo so, io la vedo bene questa squadra qua, a me piace, sì. Caserta a me piace, poi dopo non lo so. Caserta è una delle squadre che in questo momento giocano la miglior pallacanestro possibile, ne parlavamo anche ieri sera io e Dario Ricci alle 8:30 in palla spicchi. Sacripanti è uno che riesce a spremere da una situazione anche economicamente molto difficile ai limiti dell'impossibilità una pallacanestro meravigliosa. Sperare in che cosa? Io credo, insomma, puoi realisticamente sperare nei playoff, puoi sperare comunque in una stagione tranquilla, ma io spererei soprattutto di riuscire a sistemare i grandi problemi economici che Caserta ha. Sacripanti tra l'altro stamattina ha detto entrare nel Final Eight di Coppa Italia sarebbe fantastico. Ecco un risultato auspicabile per Caserta e meritato per Caserta, per la Caserta del basket sarebbe quello. 800 24 00 24 il numero verde. Non so se facciamo, volete sentire, no, dopo? Torniamo dopo sul podio, dopo le lucubrazioni di De Laurentiis sull'economia mondiale e su una possibile vendita di Cavani. Dopo torniamo anche con le altre dichiarazioni da podio della domenica della Serie A. Cavani si scatena, venite pure qua, venite! 60 milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo! Se non ce l'avete, restate dove siete! È vero che non è il mio lavoro, però non era facile oggi anche leggere la partita, dare indicazioni tattiche. C'è stata un'intensità pazzesca, soprattutto nel primo tempo. Lasciamo stare, guardate. Dite quello che vi pare, abbiamo vinto la Roma, sono contento. Perché? Non mi va di commentare. Non so, ma è arrabbiato? Prego, se vengo perché devo venire, fatemi le domande, rispondo se voglio, a seconda delle domande, se vado via. Studio. Sì, no, cos'è che la infastidisce? Perché dopo una vittoria del genere, una prestazione incredibile di Cavani... Infatti, ha giocato Cavani da solo contro la Roma, non meno male si sa Cavani, sennò non si giocava. Cioè la Roma invece non c'ha nessuno, non c'ha giocatori, c'ha una squadretta, peccato. Va bene, posso andare via? No, cioè, no, se rimane meglio. Se rimane meglio, se vuole fare... Mi farebbe più piacere andare via, sono venuto... Ma con chi è arrabbiato, scusi? Ma lasciate perdere, in studio ci sono tutti allenatori bravi, professori, scienziati, vado via. No, perché grazie, scusi se ne va? Mister, ma insomma. È andato. Questo era, l'avete riconosciuto naturalmente, Mazzarri ieri a Mediaset Premium, il bambino che prende il pallone e va via. Se è offeso non sono chiari i motivi, forse per gli eccessivi elogi a Cavani che... in linea di massima ha fatto 3 gol, mi sembra appropriato certe volte, quanto mai appropriato il soprannome Lamentino, che Mazzarri, che pure a me è simpatico, si porta appiccicato addosso da molti anni. Invece il Barone è e sarà sempre il soprannome di Franco Causio. Ciao Franco, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao, che hai commentato per Sky la sconfitta dell'Inter. Stramaccioni si è aggrappato subito a questi episodi arbitrali. Io ho detto prima e ho anche scritto, secondo me, segno di debolezza. L'Inter sembra aver perso il filo. Segno di debolezza. Sai, io, insomma, vedendo la partita, insomma, dal vivo, forse in televisione si vede in un altro modo, ma l'Inter fino a quando... è stata solo 0-0, ho avuto delle occasioni, è stata una partita molto equilibrata, quindi sicuramente degli errori in fase difensiva ci sono stati, anche perché insomma sono venuti a mancare determinati giocatori, quindi tanti infortuni, però sinceramente fino a quando era solo 0-0 hanno avuto delle occasioni per andare in vantaggio, con prima quella di Jonathan clamorosa, quindi sì. Poi quell'altra di di Palacio. Insomma, io credo che se andava su 1-0 forse la partita poteva anche cambiare. Però nonostante tutto questo, io, come hai detto giustamente tu, non mi abbia Pereira, la faccenda del rigore dato e non dato, perché abbiamo visto tutti che il rigore non c'era. In partenza c'era un fuorigioco di Palacio, non segnalato dall'assistente. Però a prescindere da quello non mi sembrava tanto rigore, né ieri quando l'ho visto e poi l'ho rivisto ieri sera, ho visto altre volte, quindi certo, il rigore non c'era. Aggrapparsi al rigore oppure a una ammonizione, credo che, come hai detto giustamente tu, è una cosa... Ma se io lo dico pubblicamente... No, bisogna essere realisti, guarda, io credo che l'Inter fino ha fatto i primi mesi abbastanza brillanti, anche brillantezza fisica, tutto, fino alla partita con la Juve, allo Juventus Stadio, ha fatto una partita eccezionale, l'hanno vinta meritatamente, giocando bene, quindi prescindere dai meriti o non dai meriti della Juventus, però l'Inter ha fatto una grossa gara, l'ha vinta bene. Poi da quel momento lì io pensavo che facesse quel salto di qualità, invece è come se fosse spenta la luce, come se fosse spento qualcosa, non lo so cosa è successo. Siamo venuti a mancare delle mie giocatori, probabilmente anche infortuni, mettiamola come vogliamo, però tutti quanti ci si aspettava un qualcosa di più da questi, certo. Invece infortuni, non lo so, io non so cosa sia. Sì, ma gli infortuni sicuro, però non so, io non vivo lì a Milano nell'ambiente Inter, nel vedere allenamenti, non conosco le motivazioni, sarei anche stupido dire per questo o per quest'altro. Sicuramente, sai, negli ultime 8 partite tu fai 7 punti, insomma, Milito ha fatto, se non sbaglio, un gol solo, certo. Sicuramente qualcosa da analizzare c'è, quindi, però nonostante tutto 35 punti, io credo che è la Juve che sta facendo diventare anche, sai, sia l'Inter, sia il Napoli, sia la Roma, sia la Lazio stesso, che sta anche ancora a 5 punti, però è la marcia della Juve che fa sì che le altre dicano stiamo andando male, no? Sì, loro ragione. Stanno andando troppo forti, per fortuna, per fortuna che ieri c'è stata sta caduta della Juve, che se la Juve vince batteva la Sampdoria ieri, credo che il campionato sinceramente alla Befana poteva già considerarsi finito, quindi per fortuna da tutto l'ambiente sportivo, io per l'amor di Dio però ringraziamo la Sampdoria se il campionato ancora rimane vivo. Teniamolo vivo col respiratore finché possibile, sì. Anche se un'altra squadra in grado di vincerla, io non la vedo e continuo a non vederla, e non la vedrò mai. È stata una giornata troppo strana per essere credibile, Franco. Forse una pausa troppo anche lunga. La Juve, nonostante la sconfitta, le altre hanno perso tutte, sono tutte rallentate. La Roma ha perso, la Fiorentina ha perso. L'unica che ne ha guadagnato, ha avvantaggiato, è Napoli con la Fiorentina. E la Lazio, però sono due squadre, sai. Napoli, quando si trova continuità, sicuramente può dare un po' fastidio alla Juventus. La Lazio ancora la vedo un po' un attimino più indietro del Napoli, anche se sta facendo delle grosse eccezioni. Anche se è molto solida, molto quadrata, sì, ma io molto razionale. L'ho già commentata 3 volte e ho visto una Lazio veramente messa bene in campo. Questo signore è un signore molto furbo, intelligente, sa cosa vuole, sa mettere in campo una squadra. Quindi bisogna tenerla bisogna dargli una giusta considerazione, quindi non bisogna sottovalutarla, perché sai, ha dei giocatori, centrocampo secondo me è uno dei migliori. Anche secondo me. Quindi se sente con Candreva, Ledesma, Mauri, sai, Gonzalez che nessuno ne parla, è un giocatore importante, quindi poi hanno un giocatore che, ripeto, è alla Lazio, che è questo signor tedesco, Klos, che lui... classe assoluto. Se ce l'avesse la Juventus farebbe 30 gol questo qui con tutte le azioni che fanno lì davanti, quindi diventerebbe capocannoniere come Cavani. E l'Inter è andato a prendere Rocchi invece per tamponare... Ma guarda, io anche questo, io con tutto il rispetto che ho per Rocchi, quindi sai, l'Inter secondo me non ha bisogno di questi giocatori, ha bisogno di un giocatore che, se mi manca Milito, se io faccio una partita contro la Fiorentina, contro la Juve, chi presento? Rocchi, con tutto il rispetto che ho per Rocchi, per amor del cielo, un giocatore che non giocava nemmeno nel mezzo nella Lazio, quindi io devo andare a prendere un giocatore, non so, faccio un esempio tipo Dennis all'Atalanta, figlio Dennis all'Atalanta, lo metto dietro Milito e dico vabbè, non gioca Milito ma gioca Dennis, che è uno che insomma va in doppia cifra. Devo avere un po' più di considerazione, non è che posso prendere dei giocatori tanto per prendere, ripeto, sempre con tutto rispetto per, sì, per i giocatori. Poi restano anche quelli che ci sono come anni. Snyder, che vanno in tribuna, e c'è Moratti che oggi ha detto Gaminga Muneda, come dicono a Milano, poco da spendere, questo, lo recuperiamo gli assenti. Perché conosco bene il milanese, io dico anche alla faccenda di Snyder, con tutto il rispetto, con tutte le bisognava secondo me essere un po' più, non lo so, si è sbagliato i tempi, probabilmente si doveva fare qualcosa di diverso, cercare una soluzione diversa, quindi non so per quale motivo Snyder non sia in grado, perché anche Snyder ieri è messo lì in mezzo al campo, qualcosa fa. Ma la qualità è, io ieri ho detto anche durante la telecronaca, sicuramente a questa squadra manca un regista, quindi è uno che ha un po' delle idee, uno che mi verticalizzi l'azione ogni tanto. Ma manca il trasformatore di energia, no? Cioè quello che dal lavoro del centro campo, bravo, no? Quello che dal lavoro del centrocampo riesce ad avere il colpo di genio, ad innescare le punte e andare a chiudere da solo. L'ha fatto a me e non è dispiaciuto Guarin, perché l'ho fatto molto bene. No, a me non dispiace mai Guarin. È stato uno dei migliori, quindi insieme a Cassano nel secondo tempo, primo tempo un po' meno. Però sai, è troppo poco per l'Inter, che deve fare un salto di qualità se vuole ambire ad arrivare vicino alla Juve. E sicuramente mancano ancora dei pezzi importanti, quindi secondo il mio punto di vista. Grazie Barone. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Barone. Franco Causio, io torno sul podio se non vi dispiace con la dichiarazione numero 2, cioè medaglia d'argento, secondo gradino del podio nelle dichiarazioni della domenica, che va ad Antonio Conte. Se Bonucci fosse caduto e avesse fatto simulazione, sicuramente l'arbitro l'avrebbe ammonito e cacciato. Infatti io mi sono anche arrabbiato nello spogliatoio, perché ho detto cazzo, ti ho detto scusa Bonucci, e tu stai attento perché in 5 minuti rischi di farti cacciare. Quindi capito, no? La spiegazione di Conte su quell'episodio di Bonucci, però in cima alla graduatoria, medaglia d'oro proprio senza avversari, è Sua Maestà Claudio Lotito, anzi l'imperatore Claudio Lotito. Torna a ripetere, la squadra non deve portare dei grandi nomi. Quindi Lampard però, non viene. Ma lasci vedere Lampard, le cose quelle che. Il problema è che noi Lampard accendiamo la sera quando si spogliano. Ma guardi questo problema, titolo, non le piace? Sì, ma io sì, I have a dream, sì, io ho un sogno, va bene. E il sogno, tutti abbiamo i sogni. E Lampard non è un suo sogno. Se la cosa di sei, secondo Cenerentola, i sogni sono desideri. L'aspetto lirico, ce l'hanno tutti. Trovatemene una migliore e vi pago il caffè, giuro. 800 24 00 24. Intanto i sogni sono desideri, De Laurentiis dice sogno Cavani con Balotelli, sì. Berlusconi dice io preferisco El Shaarawy. Lampard non rinnova, Lazio e Inter si fanno sotto, ma i sogni sono desideri, come avete sentito da Claudio Lotito. Torniamo molto volentieri agli ascoltatori. 800 24 00 24 numero verde. C'è chi, Franco Piantanida, mi suggerisce giustamente, sì, Cavani con Balotelli, ma al City però. Tino, Reggio Emilia. Buongiorno. Senti, io volevo dire questo. Io ho visto Juventus-Sampdoria, l'ho visto in televisione. Adesso parlare di un'impresa della Sampdoria è sicuramente un'impresa, giocare in 10 a Torino al secondo tempo, vincere a Torino allo Juventus Stadium, dove è difficilissimo vincere, tutto quanto. Però io vedo una partita storta della Juve, specialmente in difesa da parte di Buffon, che prima è stata una papera, la seconda. Questo non c'è dubbio, anche la seconda. Anche la seconda perché si insegna che quel palo è del portiere, nonostante il tiro fosse molto violento. Quindi Vucinic che sbaglia due gol davanti alla porta in quella maniera, un rigore su Matri, cioè, insomma, la Juve sa, Tino, però per dare i meriti a chi ha vinto. Esatto, però per che la determinare Juve quel risultato ci vogliono tutte queste componenti. Esatto, no? Esatto, questo volevo dire. Però certamente una grande Juventus non l'avrà vista neanche lei. Siamo d'accordo. Che adesso la Sampdoria ha vinto lì, sì, ci dà morale, ci dà qua e ci dà là, state polleggiati, calmi, come si dice qua in Emilia Romagna, che poi alla fine ne prendete altrettanti, cioè, insomma, non è che la donna, La Sampdoria, sì. Beh, Sampdoria. Non si devono galvanizzare molto, secondo ma me. Secondo me si devono galvanizzare altro che ha vinto a Torino in 10 sotto di un gol allo Juventus Stadium. Io farei festa. Io farei festa. Altro che. Anche il Pescara ha vinto a Firenze. Anche il Pescara ha vinto a Firenze. È stata una giornata chiaramente molto strana. Però state calmi, mi sembra. Io direi mi sembra ingeneroso. È giusto, giusto festeggiare, ma poi torniamo con i piedi per terra perché ne prendete di legnata a volontà, secondo me. Bah, non lo so, vediamo cosa, magari qualcuno la prenderanno, però insomma a Sampdoria resta il fatto che si è intascati 3 punti, è tornata a Genova, ha fatto festa e non ha rubato nulla, quindi no, ma nessuno sta dicendo che ha rubato, sto dicendo di stare piedi per terra, che prima c'è il giocatore lì che ma la Sampdoria mica deve vincere, ma gli dà morale altro che, ma su questo non c'è dubbio, ma mica deve vincere lo scudetto la Sampdoria, però ha fatto una grande impresa con tutte le componenti che abbiamo evidenziato, mancherebbe altro non essere strafelici. Lei, oggi guardi, scusi l'ultima cosa che vi dico, all'inizio del campionato la Sampdoria ha vinto a Milano 3-4 partite che erano i primi posti, no? Ferrara qua, Ferrara là, poi poveretto, mi dispiace per Ferrara perché io sono juventino, cioè ha innescato una serie di risultati negativi, Ferrara non era più nessuno, cioè per il calcio è questo, quindi dico ragazzi tranquilli, avete una squadra giovane, c'è questo Eder che è fortissimo secondo me perché è uno che semina padre da tutti i lati, ma tutti convocati qui ogni giorno dalle 2 alle 3, dal lunedì al venerdì, e voglio sentire sempre le vostre voci, e tra poco vi farò sentire anche l'Oscar del gol della domenica che abbiamo scelto, ma intanto c'è Tommaso dalla provincia di Prato e poi andiamo a Campobasso. Tommaso, buonasera. Buongiorno. Sì, buonasera. Ecco, io mi collego anche volentieri all'intervento precedente, perché fossi un tifoso della Sampdoria sarei ancora a fare festa. Purtroppo sono un tifoso juventino e c'è poco da far festa, però credo una cosa, credo che parlare di una Juventus che non ha fame sia un po', ecco, sia molto sbagliato, sia un po' esagerato. In valore assoluto sì. Perché penso che sia già sbagliato farlo relativo a una squadra in valore assoluto, come, sì, però ieri non ieri Tommaso, però ieri anche lei che è juventino non avrà visto la solita Juventus. Sono d'accordissimo. Una Juventus figlia di questa lunga pausa. Tra l'altro la Juventus non ha neanche fatto tantissime vacanze, perché mi sembra si sia ritrovata al 28, quando ad esempio l'Inter si è ritrovata al 2 di gennaio, che è molto tardi a mio parere. La Roma è andata curiosamente a fare amichevole americane, eccetera eccetera, insomma è importante anche poi nel leggere i risultati della prima domenica di campionato come uno ha gestito la sosta. Certamente non è stata una Juventus brillante quella che abbiamo visto ieri. Non ci sono appelli, anche perché in 10 contro 11 tre punti vanno portati assolutamente a casa, però insomma sono stati due errori di Buffon, ma io penso, se uno legge le statistiche, forse l'errore così Buffon ne fa uno ogni 4 anni, quindi si può stare tranquilli per altri 4 anni. Per i prossimi 4. Sì, esatto, ecco. Quindi, comunque si può parlare di Juventus, perché alla fine se si considera quello che ha fatto tra quest'anno e l'anno scorso, ecco, penso di voglia di fare ce ne sia. Sì, questo senz'altro, non si è vista ieri ma ce n'è di sicuro. No, stavo leggendo messaggi su SMS 349-238-6666 e su Twitter, mi raccomando seguiteci anche su Twitter. C'è Maurizio Manico che scrive: palese la sua poca simpatia per il Napoli ogni volta che ne parla, oggi Eviti è ridicolo. Non saprei perché il Napoli e De Laurentiis soprattutto mi sono estremamente simpatici, non saprei spiegare, però se Maurizio mi chiama me lo spiega lui, visto che ci sono telefoni aperti 800 24 00 24, la mia antipatia per il Napoli, che di fatto, ve lo giuro, non esiste. Paola, provincia di Milano. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno Paola. Sono tifosa sampdoriana, quindi direi che posso sicuramente... Che non facciamo festa, stiamo schiacciati, no, oggi no. Mettiamo la bandiera blu cerchiata sul balcone, poi la togliamo domani, però... Ma magari no, c'è il Milan domenica, si sa mai che si fa una doppietta. Hai visto mai che già all'andata non era andata malissimo, All'andata è andata benissimo ed era anche allo stadio, quindi mi era andata bene. No, io volevo dire sui Icardi. Icardi io non lo scopro oggi, cioè magari gli altri probabilmente sì, però da noi diciamo che ha già cominciato a conquistarsi un posticino. bene o male per caso, perché con gli infortuni di Ponte Maxi Lopez si è aperta un po' la strada. Ieri però Balsarini da Mediaset in collegamento aveva detto: gioca Icardi perché Pozzi si è di nuovo infortunato. Non è vero, ormai la gerarchia è sicuramente prima Icardi, poi... Certo, lei probabilmente lo ha scoperto un po' prima, è un giocatore che stiamo via via scoprendo e comunque che si è ritagliato, per le ragioni che lei giustamente citava, ora un posto da titolare. Mi sembra palese che il titolare... Sono anche curiosa di vedere cosa succederà quando torna Maxi Lopez, perché io penso che Maxi Lopez sarà titolare, però come fai a togliere un Icardi così? Ma magari anche insieme. Non mica detto, magari anche insieme, ma perché no? Non è mica detto. Beh, ieri Eder ha giocato una grande partita, però mica detto che possano Icardi e Maxi Lopez trovare una strada per convivere. Comunque è un giocatore indubbiamente che stiamo scoprendo, che adesso è titolare della Sampdoria. A proposito di prima di Pasquale Campobasso e Paolo da Trento, l'Oscar del gol questa settimana non va ad un gol, ma a chi ne ha evitati un sacco. And the Oscar goes to... Pallone per Toni, che in posizione regolare, Toni! La parata di Perin, subito una grande occasione per la Fiorentina. Pasquale ancora con il sinistro tagliato, palla che arriva dalle parti di Toni, poi Borja Valero, conclusione, Tomovic! Tutto regolare, grande parata di Perin. Aquilani, c'è Cuadrado alle sue spalle, Cuadrado può avvicinarsi all'area, va la conclusione, Cuadrado! Pallone che sibila sopra la traversa di Perin, che tocca anche il pallone. Jovetic limite nell'area, Jovetic la conclusione, ancora centrale, se la cava Perin. Colpo di testa e la grande parata ancora di Perin, Aquilani di testa vicinissimo al gol. Sono giornate che capitano così, per fortuna è capitata oggi e abbiamo fatto un grande risultato a Firenze inaspettato, però abbiamo lottato tutti insieme dal primo all'ultimo minuto, sì, e è stata la vittoria più del gruppo. E Gigi quando abbiamo perso 6-1 con la Juve mi ha detto di essere spensierato e tranquillo, e io cerco di esserlo, sempre l'ha detto lui. Ma io dico sempre una cosa, poi è vero che ognuno ha la propria personalità, ognuno è un portiere a sé, però secondo me è come Gigi, ne nasce uno ogni 40 anni, io e lui se portiamo 20 anni, quindi... No, tu sei bravo. Ma che bravo? Sei bravo, no. Tu sei molto, molto bravo. Tu hai un dono. No. Te lo dico io. Tu hai un dono. Mica male la dichiarazione del giovanissimo portiere del Pescara, se portiamo 20 anni tra me e Buffon, quindi... E quindi stiamo a vedere. Poi quella parola spensierato deve ricorrere molto nello spogliatoio della Juventus. Cosa dite, interisti? Pasquale di Campobasso, ma c'è Enrico su Twitter: cessione di Cavani, io penso che dipenda come andrà la Filmauro nei prossimi mesi, non lo so, dipende da come andrà l'economia mondiale, dice De Laurentiis, io non so cosa dire. Pasquale, buongiorno. Pasquale, buongiorno. Ciao, allora, sì. Ciao. Senti, io ho innanzitutto complimenti per la trasmissione, molto interessante. Grazie. La questione è questa: io ieri ho visto la partita dell'Inter e ho notato questa cosa qui. Secondo me Stramaccioni è anche in questo momento poco libero di fare delle scelte, indipendentemente dal numero dei giocatori, perché ne sono pochissimi. Ma secondo me ha un rapporto così fiduciario con il direttore tecnico, soprattutto con la presidenza, che secondo me alcune scelte, come quella di Schneider, sono troppo, diciamo, in un certo senso vincolate da questo. Cioè, tu dici è un po' aziendalista, fa un po' quello che gli dice, sì, la società, è un po' ostaggio. Perché è come il capo che in quel momento lì, a tempo determinato, sa che se non fa quello che gli viene detto dalla società, d'altra parte, quello che dice lui, che scelte. D'altra parte, a uno come Schneider non rinuncerai mai, però se Stramaccioni non punti i piedi, evidentemente, insomma, teniamo conto dell'età, teniamo conto del ruolo, teniamo conto di molte cose, decide di stare dalla parte della società, io insomma posso anche al limite capirlo, come non capirò mai l'esclusione di un giocatore di questo tipo. Poi c'è dell'altro? Poi sì, un'altra cosa. Prego. Dell'Inter, indipendentemente dall'età, che ormai è cresciuta e che non capisco il motivo per cui non vengano presi giocatori dalla primavera, visto che l'Inter la primavera ha vinto la Champions. Io credevo, secondo te, volevo un'impressione tua, se le due fasce, soprattutto quella destra, con la dipartita di Maicon che è andato a di partita, fare, partenza insomma, per l'altra parte. Ancora la vivo. Partenza, scusa. non ha visto anche in questo caso, perché come la fece? Cioè a un certo punto quando il giocatore centrale, in questo momento non c'è Snyder, ma ci sono giocatori che ha i piedi, diciamo, meno buoni dei suoi, hanno bisogno del giocatore che gli dia la sovrapposizione. Ieri Jonathan a un certo punto giocava più che altro da quinto centrocampista, non era uno che Jonathan può essere Jonathan in una squadra allora Jonathan in una squadra da tiri, una squadra di alto livello è la riserva della riserva. Poi all'Inter hanno appunto i giocatori contati, certo non puoi affidarti su quella fascia a un giocatore così e pensare che sia il Mike Conn dei tempi d'oro. Paolo da Trento al volo, poi chiudiamo. Al volo, allora, domenica sera? Su Rai 3, presa diretta di Riccardo Iacona, sì? Direi di non perdervi una trasmissione sul calcio scommesse. Sì. Sei d'accordo, Carlo? Sono d'accordo, perché? Perfetto, era solo per questo. Mi piace sapere che tanti tifosi se la guardino. Sì. Allora, quando ripetiamo non c'è nessuna malizia sotto, mi interessa. No, ripetiamo l'appuntamento per ordine di servizio. Te le spezzerei le gambe io, comunque. Come? I giocatori che scommettono li spezzerei le gambe io. Comunque. Ma no, io non... Vorrei che la guardaste tutti, che tutti poi se la guardassero. Io la guardo di sicuro, io non gli spezzerei le gambe, io non semplicemente non li farei più giocare esattamente come non farei più correre i ciclisti che si dopano. Discorso lungo che non abbiamo tempo di fare, siamo in chiusura. Ma lo faremo, perché siamo qui apposta per parlare di tutto, di sport ogni giorno, tutti convocati. Franco Piantanida, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, domani. I sogni son desideri. Secondo Cenerentola, i sogni son desideri. Ma no,